Storiacce di Raffaella Calandra. Strangolato e poi gettato in un vecchio canalone poco lontano dalla spiaggia di Montalbano. Aveva 8 anni Loris Stival, è stato schiacciato da una storia di orrori, ricatti e silenzi, come è successo per Tommaso Onofri, come si è ripetuto per Yara Gambirasio, come sempre avviene quando la vittima è un bambino, e avviene troppo spesso. Negli ultimi 10 anni quasi 300 sono stati bimbi uccisi solo in Italia, il più delle volte per mano dei genitori, quasi sempre comunque da parte di qualcuno di cui loro, i più piccoli, si fidavano. Qualcuno che non è mai semplice trovare, perché spesso difficile, da strati di segreti e connivenze, e questa è solo una delle tante difficoltà con cui deve fare i conti chi indaga sugli omicidi dei bambini, come la pressione esterna, come anche l'emotività. E allora da qui, da questo vecchio mulino di Santa Croce Camerina, da un borgo del Ragusano sconvolto dalla morte del piccolo Loris, parte questa puntata di Storiacce sui ladri di bambini. Tommy aveva riccioli neri e un viso paffuto. Yara l'abbiamo vista coi suoi nastri da ginnasta e sorridere col suo apparecchio da bimba. Loris indossava il kimono. I loro visi a volte li abbiamo per mesi osservati sulle pagine dei giornali, quando ancora erano dei bimbi solo spariti all'improvviso, nella speranza di ritrovarli vivi. E poi li abbiamo rivisti ancora su tutte le TV e tutti i giornali, quando le indagini sono diventate la caccia ai responsabili di un delitto. Le loro facce di bimbi continuano a sorridere uguali anche quando i peggiori dettagli emergono da quelle inchieste, in genere molto complesse e molto faticose da gestire anche per i magistrati, perché, come sentiremo, c'è la pressione esterna di chi vuole un colpevole velocemente, perché si scava in orrori che farebbero rabbia a chiunque, perché si devono mettere insieme tessere di vario genere e il più delle volte perché si deve rovistare nelle intimità delle famiglie. Ma alla fine sono le loro facce a restare. E se anche voi ora provate a ripensare a tutti questi grandi casi di cronaca, i loro visi si ricomporranno uguali nella vostra memoria. Forse piuttosto li confonderete, perché sono tanti. Negli ultimi 10 anni in Italia sono stati almeno 245 i bimbi uccisi. Un calcolo fatto dall'associazione Mater Onlus, che va di sicuro rivisto al rialzo. Un calcolo dietro il quale, commenta il presidente Don Fortunato Di Noto, ci sono storie simili di infanzie spezzate. C'è la considerazione dei bambini come oggetti. Basti pensare che di questi 245 che noi abbiamo tentato di ricostruire anche un po' le loro storie, la loro vita, ci rendiamo conto che sono stati uccisi quasi tutti da parte dei loro genitori, da parte dei loro tutori, da parte di loro che stavano vicino. Nella maggior parte dei casi il responsabile della morte di questi bambini è nella cerchia più vicina a loro, a cominciare dai delitti compiuti dagli stessi genitori. Quasi nella totalità delle volte i delitti sui bambini maturano comunque all'interno della fascia familiare, è così? È proprio così, perché il delitto, se vogliamo poi estenderlo anche ad esempio alla schiavitù, della pedofilia, se poi noi dobbiamo pensare ai rapimenti che avvengono dei bambini che scompaiono, mancano all'appello ad esempio in Italia decine di bambini che non sono stati mai più ritrovati, se poi pensiamo al silenzio che copre automaticamente nella cerchia familiare il senso dell'omertà, ci sono situazioni particolari in cui i bambini in fondo si fidano del proprio carnefice. Storie spesso di disagi o di conflitti tra genitori per le separazioni che finiscono con delle stragi familiari in cui uno o l'altro genitore ammazza prima tutti quanti i figli, poi spesso si toglie la vita. Queste sono le storie che più si ripetono, ma non è questa soltanto l'unica ragione dei delitti sui bambini, quanto invece la sfera anche sessuale incide sui delitti. Ma la sfera sessuale incide moltissimo, perché se è vero come è vero che tutto accade nell'ambito della famiglia, che può derivare anche da un rapitus, da una separazione, da un conflitto tra genitori che poi non si sa gestire la situazione, e chi perde vuole far sì che tutto si perda. E non dobbiamo dimenticare che c'è quell'aspetto più devastante, che è la perpetuazione di violenze sessuali che avvengono nell'ambito della famiglia, ma non solo nell'ambito della famiglia. La violenza sessuale sui bambini è definita dalla legge stessa anche una nuova forma di schiavitù. In fondo abbiamo i nuovi schiavi, i bambini sono schiavi di trappole molto pesanti, molto forti, che per loro motivi di non poter esprimere, per non avere punti di riferimento, ma comunque sì, i bambini cercano di esprimere il loro disagio. Poi si può arrivare anche ai delitti sui bambini, dove anche poi non c'è mai si individuano i responsabili. Allora noi abbiamo bambini uccisi, io mi sto ricordando non solo dell'ultimo episodio che è accaduto a Santa Croce Camerina, ma mi sto pensando a Francesco Ferreri a Barrafranca, ecco, che è stato ucciso in maniera quasi simile, perché anche lui buttato in un cavalcavia dove io sono stato a vedere il cavalcavia, i sospetti sono stati giudicati nelle tre gradi di giudizio, ma tutti assolti. Allora noi sappiamo che ci sono bambini, non soltanto lui ma tanti altri, che sono stati uccisi ma non sono stati mai rinvenuti o ritrovati i colpevoli. Adesso c'è questa brutta storia di Santa Croce Camerina, il delitto del piccolo Loris, ma prima ce ne sono stati purtroppo molti altri, il caso del delitto di Tommaso Onofri a Parma, oppure quello di Yara Gambirasio nel Bergamasco. Nella vostra stima, che quindi abbraccia uno spazio di tempo lungo di 10 anni, questi delitti avvengono allo stesso modo in tutte le varie parti del paese o c'è una differenza tra nord, sud, tra la provincia, la città? C'è un modus operandi, una specie di cliché comune, dove c'è comunque qualcuno che ha individuato dei bambini. Io non credo che ci sia soltanto il raptus immediato, che può accadere nell'ambito, abbiamo detto, delle famiglie, ma sono più che convinto, da un'analisi attenta dei casi che sono accaduti, che ci sono persone che hanno veramente si sono appropriati della vita dei bambini, li seguono, sono attenti, hanno già una relazione, a volte arrivano ad avere l'abuso sessuale. Questo dà una prima idea della difficoltà di questo genere di indagini, che catapultano sotto i riflettori di tutta l'Italia borghi fino ad allora sconosciuti, come è stato per Santa Croce Camerina ora, o andando indietro nel tempo per Cogne, o Casal Baroncolo, o poi ancora per Brembate o Avetrana, divenuta una sorta di grande reality nelle settimane delle indagini sulla morte di Sara Scazzi. C'è la pressione del mondo di fuori, più forte che mai, in delitti di questo tipo, e tutto questo inevitabilmente entra anche all'interno delle stanze delle procure, e non è l'unico ostacolo da saltare per i magistrati, che anche loro si ritrovano catapultati in una nuova dimensione. Così successe ad esempio a Lucia Musti, ora procuratore aggiunto a Modena, quando il 2 marzo 2006 le dissero che avrebbe dovuto coordinare da Bologna l'inchiesta sulla scomparsa di un bimbo di 18 mesi, Tommaso Onofri, da Casal Baroncolo in provincia di Parma, e ora, seguendo a distanza l'inchiesta di Ragusa, si rivede calata in quei giorni frenetici. Si rimettono in moto dei ricordi molto intensi, che non sono solamente ricordi professionali, ma anche ricordi, come dire, emotivi, per quello che può provare un'emozione un magistrato poi del pubblico ministero che comunque conduce e coordina delle indagini, per cui le emozioni devono essere per quanto è possibile fuori dalla porta di accesso del proprio cuore, ovviamente, perché guai mai a farsi prendere dalle emozioni. Un'indagine di questo tipo, proprio perché è coinvolto un bambino, c'è una pressione che è ancora più forte rispetto a quella di tutti i casi, diciamo, ordinari, e questo chiaramente a volte non è facile conciliarlo con il dovere di conservare una obiettività, una lucidità e anche una, come dire, cautela che invece è obbligatoria. Ecco, sì. Per una donna questo è ancora più complicato? Per una donna è sempre tutto più complicato, per cui io credo che l'impiego della donna nel mondo del lavoro, in particolare in certi settori del lavoro dove comunque ancora possiamo dire che perché la donna non è inserita a pieno ritmo, ma perché secondo me non è inserita nella mentalità di coloro che circondano le donne che compiono certi lavori. Dicevo, questo rende tutto sempre più complicato, anche perché se una donna si commuove e si emoziona, a mio avviso rischia sempre in certi ambienti di essere un po' presa in giro. Se invece l'uomo si commuove, sembra che a lui sia dovuto. Avete mai pensato che anche i magistrati sono semplicemente degli uomini e delle donne, come tutti noi, con le loro vite e le loro emozioni? E vi siete mai chiesti come i grandi casi di cronaca, quelli che toccano tutto il paese, vengano vissuti dall'altra parte, dalla parte di chi deve cercare gli assassini? Quando poi la vittima di un delitto è un bambino, tutta l'Italia segue con ansia le evoluzioni del caso e chiede risposte veloci. Ma tutto questo può avere degli effetti negativi sulle inchieste? E cosa significa cercare ora l'assassino di Loris a Ragusa, prima quello di Chiara o del piccolo Tommaso Nofri e di tutti i 245 bimbi uccisi in 10 anni in Italia, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce? Tutti questi rischi, quelli della pressione esterna, quelli di non cedere alle emozioni, quelli di dare una risposta veloce ma che sia quella giusta, tutti questi rischi li aveva ben presente Lucia Musti, ora procuratore aggiunto a Modena, quando coordinò le inchieste sulla scomparsa e poi sull'uccisione di Tommaso Onofri, il bimbo di 18 mesi di Parma. L'elemento più complicato è stato tutto, nel senso che posta la difficoltà di gestire varie forze di polizia, e devo essere sincera, ma questo è un dato umano che non è di per sé negativo, ovviamente ogni forza di polizia cercava in qualche modo di arrivare prima al traguardo. Certo, questo capita traguardo sempre nelle inchieste importanti. Certo. Questo è un altro elemento della difficoltà della gestione di queste inchieste quando c'è una scomparsa e poi ci sono le inchieste sulla ricerca dei responsabili di una morte, nel senso che la domanda dall'esterno, dai familiari innanzitutto, dal contesto, dall'opinione pubblica, di dare presto una risposta alla giustizia, ma allo stesso tempo anche però c'è l'obbligo di andare nella direzione giusta, di non far cadere accuse estremamente pesanti, come possono essere quelle infamanti di aver ammazzato un bambino, sulle persone sbagliate. E chiaramente sappiamo come in contesti di questo genere anche soltanto una semplice iscrizione nel registro degli indagati, che molto spesso è un atto semplicemente dovuto, ha il peso già di un sospetto pesante. Ecco, tutto questo in qualche modo è difficile da gestire. Per voi com'era andata? Ah, per noi è andata tutto sommato bene, nel senso che le persone che poi abbiamo iscritto nel registro notizie di reato sono state quelle per le quali è stata esercitata l'azione penale, anzi prima ancora è stata richiesta, anzi fu emesso un fermo, ecco, un fermo da parte del pubblico ministero convalidato dal giudice. Con quel lavoro che fu mosso, con tutte le piste battute, alla fine una buona c'è stata, che è stata quella grazie all'intervento del RIS di Parma, che con un po' di fortuna trovò un'impronta digitale nel nastro scocciato servito per incartare i genitori di Tommaso, ecco. Quindi grazie a questo, fortunatamente la persona, ovviamente avendo compiuto una rapina, aveva già avuto schedata. Il prelievo, ecco, delle impronte digitali, anche perché ricordiamoci che in tutte le cose e soprattutto in indagini così faticose e difficili l'elemento fortuna è importante. È fondamentale, ma quanto un magistrato sente la richiesta legittima dei familiari delle vittime o comunque dell'opinione pubblica di avere una risposta in tempi celeri? Beh, la pressione è fortissima, ad esempio faticosissimo il rapporto con la stampa, però anche il pubblico ministero non può dire tutto, e allora molte volte riuscire a contemperare quelle che sono le esigenze del segreto delle indagini e comunque le giuste esigenze che la stampa ha è veramente faticosissimo e complicato. E poi ovviamente si sente il peso dell'aspettativa di una società che vorrebbe rivedere il bambino sorridente, quel bambino che ha visto, che ormai conosce benissimo gli occhi ricciolini e tutto nel caso di Tommaso, lo vorrebbe rivedere non immobile in una foto, ma come dire mobile. E quindi questo sicuramente è un peso fortissimo che è da gestire insieme alla fatica del lavoro, alla quotidianità, al fatto che normalmente il magistrato non è poi che poi si occupa solo di quel caso che i giornalisti sanno, che l'opinione pubblica aspetta, ma comunque ha una quotidianità di tanti altri processi da gestire. Certo, che è la routine, diciamo. Quindi, oltre al processo è un elemento importante che forse il cittadino a volte dimentica, ma mentre io cerco chi ha ammazzato Tommaso, c'è il signore Pinco Pallo che viene molestato dal signore che abita sopra, Pallo Pinco, che pesta il pavimento la sera e disturba la sua quiete. E per quel signore paradossalmente è più importante il calpestio del pavimento del vicino di casa che Tommaso Nofri, che è nelle mani dei suoi sequestratori. Ma a lei è mai capitato di occuparsi di violenze fisiche e sessuali su minori? Beh sì, in tantissimi anni sicuramente sì, anche se non ho mai fatto parte di quelli che poi ormai da 15 anni sono operativi nelle procure delle repubbliche, cioè con dipartimenti specializzati. Esatto, quindi non ne ho mai fatto parte perché non sono mai stata molto attirata da questo tipo di reato, quindi la mia esperienza è stata più limitata, però ad esempio ho gestito il primo caso finito male tra virgolette, perché sono stati assolti, finito bene per la giustizia, per carità di Dio, di violenze, abusi sessuali su minori nell'ambito di sette sataniche. A leggere, a sentire un fatto del genere, lei ci pensa a quanto possa essere complicato anche per i suoi colleghi occuparsi anche di un aspetto di questo tipo? Sì, sicuramente è complicato, però non è secondo me l'aspetto di maggiore complicatezza, perché quando si fa una certa scelta professionale, quando quindi dopo tanti anni si sono aperti e chiusi tanti fascicoli, si sono viste tante situazioni, quando poi magari ognuno di noi ha il proprio patrimonio di formazione, di carattere, di cultura, per cui ci sono coloro che per natura sono comunque più dubbiosi verso l'essere umano, più non fiduciosi, ecco, come nel mio caso, che al mio carattere, alla mia personalità aggiungo la mia esperienza professionale, io come dico sempre non mi meraviglio di nulla e non mi fido di nessuno, per cui anche nel leggere le carte, anche nel leggere le cose più orribili, parlando di abusi sessuali, è chiaro, hai un senso di schifo, perché non è che non puoi avere uno schifo, però rimango abbastanza, a parte appunto lo schifo che comunque ti viene, però poi gestisco il senso di schifo, di disgusto, che tale è, e come dire, passo alla fase 2, cioè divento, se possibile, che è quella di mettere cattiva, tra virgolette, certo, cioè lascio da parte il disgusto, il ribrezzo, e penso come posso fare bene il mio lavoro, che comunque è complicatissimo, quindi ecco, uno deve pensare a raccogliere in sé tutte quante le proprie cognizioni, circondarsi di tecnici, di pubblica, di polizia giudiziaria professionale. Ma di bimbi uccisi è piena anche la storia del mito. E come sempre, a questo punto la linea va a Giorgio Ieranò, autore di Olympos e di altri libri sulla mitologia classica e professore di greco all'Università di Trento. Mitiche storiacce. A volte solo il mito permette di raccontare le cose più terribili, quelle per cui non sappiamo trovare altre parole. Solo il mito può guidarci dentro il cuore di tenebra dell'uomo. Solo in forma di favola possiamo avvicinarci a un mistero così incomprensibile come la morte violenta di un bambino. Il mito greco trabocca di bambini uccisi, vittime della follia o della crudeltà, uccisi dalle loro madri, come i figli di Medea, per vendetta contro un marito traditore, ammazzati per avidità, come Polidoro, gettato in mare da un re crudele che voleva impadronirsi del suo oro, oppure schiantati dalla guerra, come Astianate, il figlio del grande Ettore, buttato giù dalle mura di Troia dagli Achei vincitori. Ma forse il mito più enigmatico è quello del piccolo Archemoro, un bambino morto per disattenzione. La ragazza che si occupava di lui, la babysitter diremmo noi, si distrasse a parlare con alcuni guerrieri che passavano in marcia verso una grande avventura. Un serpente velenoso si avvicinò ad Archemoro e lo morse, uccidendolo. I guerrieri vollero celebrare la morte di quel bambino. In suo onore istituirono i giochi atletici di Nemea, famosi nell'antichità come quelli di Olimpia. E Archemoro, il bambino morto, fu venerato come un eroe per il solo fatto di essere morto bambino. Perché c'è sempre qualcosa di innaturale, di oltreumano nella morte di un bambino. Archemoro in greco significa colui che guida, che precede nella morte. E quei guerrieri che si inginocchiarono davanti ad Archemoro come davanti a un eroe, capirono che la sua morte assurda conteneva il dolore di tutti noi uomini. La segnalazione questa settimana ve la faccio direttamente io. È qualcosa che ho vissuto qualche giorno fa in metropolitana a Milano, quando ho visto un ragazzo ventenne col cappuccio in testa che camminava tra i binari e andava verso la galleria. Il treno sarebbe arrivato poco dopo e lo avrebbe investito di sicuro. Mi sono chiesta cosa fare in quel momento. Tutti lo osservavano, ma nessuno stava facendo niente. Ho cercato di chiamare la polizia, ho chiamato il 113, poi a quel punto ho chiamato un numero di soccorso d'emergenza ed erano pochi sulla banchina della metropolitana gialla alla fermata della stazione centrale di Milano. Però siamo riusciti, insieme con il personale dell'ATM, a fermare quel treno in corsa che stava arrivando e che avrebbe travolto di sicuro quel ragazzo. Del ragazzo non ho avuto più notizie. Di sicuro quel treno non l'ha travolto, ma a me è rimasta una domanda. Possibile che nessuno su quella banchina affollata abbia sentito la responsabilità della vita di quel ventenne? Rifletteteci anche voi, se vi va. E se avete altre storie invece da segnalarmi, fatelo sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog Storiacce. Su Twitter invece mi trovate all'account Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto.